Questo è Il Cammino di Gigi D'Agostino. Coincidenza con i tuoi sogni. Gigi D'Agostino passeggia in zone d'altri tempi. Attento. I'm Il cammino di Gigi D'Agostino. Dove passa il futuro? Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino attraversa le sue origini. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Thank you. suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Cammino di Gigi D'Agostino attraversa le sue origini. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's the destiny. I was in your arms, thinking I belong. Figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, laying by the rules. The gods make rower dice, their minds as cold as ice. Someone way down here loses someone dear.

di Gigi D'Agostino. Ho un po' di perplessità. Mando la pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino passeggia in zone d'altri tempi. A tempo. Viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Di Capodanno, il 31 dicembre. Ci vediamo a Rimini. Discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. We'll be right back.

di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo cancer. Passeggia in zone d'altri tempi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. I've been alone without a friend to have a word. Now I can hear the many voices so far away. So many dreams, so many things were lost or faded in the rain. Without a reason, baby, so I keep losing the way. Don't wanna let you go.

L'amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro si allontana. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Se arrivi tardi, ti rigo i denti. Libertà non sta nello scegliere tra il bianco e il nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Adorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Gigi D'Agostino, dove passa il futuro. ci sentiamo lunedì pomeriggio. Grazie.